Semplice e carina, la rivedo ogni mattina, mi sorride da lontano e dice: ciao! Ciao! Ciao! E corre incontro a me, tutta trafelata, dice: caro, tanta fretta, ripetendo 100.000 volte: ciao! Ciao! Ciao! Io penso sempre a te, forse in queste semplici parole era chiusa la felicità. Poi ci salutiamo, questa sera ci vediamo, manda un bacio, dice ciao e se ne va. Nel suo sorriso c'è il sole, negli occhi ha un lembo di cielo. Semplice e carina, la rivedo ogni mattina, mi sorride da lontano e dice: ciao! Ciao! Ciao! E corre incontro a me, tutta trapelata, dice: caro, tanta fretta, ripetendo 100.000 volte: ciao! Ciao! Ciao! Io penso sempre a te, forse in queste semplici parole era chiusa la felicità. Poi ci salutiamo, questa sera ci vediamo, manda un bacio, dice ciao e se ne va. Chiediamo il sogno, la realtà, bocca sulla bocca, lei mi dice piano piano: 100.000 volte t'amo e t'amerò e t'amerò.